Perfetto Giorno di Simone Spezia. Esplosione nella metropolitana a Londra, almeno 20 feriti, un ordigno artigianale secondo Scotland Yard che dice è terrorismo. Nuovo test missilistico della Corea, milioni in Giappone si risvegliano al suono delle sirene, oggi un'altra riunione delle Nazioni Unite. Oggi scatta il diritto alla pensione per i parlamentari, i 5 Stelle chiedono ai presidenti delle Camere di farli rinunciare. Chikungunya, scatta la disinfestazione a Roma, i casi salgono a 27 mentre arrivano sacche di sangue da tutta Italia. Nel Savonese una targa per ricordare una tredicenne violentata e uccisa dai partigiani, ma Lampi protesta, era fascista, dicono. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666, come sempre per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp e la pagina Facebook di Radio 24, la pagina Facebook di Effetto Giorno, dalle quali andiamo anche in diretta video e se volete, come sempre, potete commentare anche là. In apertura dunque l'esplosione nella metropolitana di Londra, ci colleghiamo con la capitale britannica, Giorgia Scaturro, buongiorno. Buongiorno, proprio in questi momenti il primo ministro britannico Theresa May sta iniziando la riunione d'emergenza del comitato di crisi sulla sicurezza per discutere dell'esplosione di questa mattina sulla metropolitana di Londra, incidente che Scotland Yard ha classificato come terroristico. Sul luogo, la stazione della metropolitana di Parsons Green a sud-ovest di Londra, sono ancora in corso le indagini del nucleo antiterrorismo. Gli inquirenti stanno dando la caccia al terrorista e ai possibili complici che questa mattina, nell'ora di punta, hanno fatto esplodere una bomba fai da te, un secchio bianco collegato a fili elettrici nascosto dentro un sacco di plastica di un supermercato. Intanto arrivano i primi dati ufficiali sui feriti. Sentiamo. Scotland Yard ha confermato che 18 persone sono state ricoverate in ospedale con lesioni e ferite da calpestamento, ma nessuno sarebbe in condizioni critiche. L'area è ancora cordonata dagli inquirenti, che dovranno anche fare luce sulla presenza di altri possibili ordigni pronti a essere fatti esplodere. Ma su questo vi aggiorneremo nel corso dei prossimi collegamenti. Grazie dunque a Giorgia Scaturro, che ritroveremo più avanti sempre nel corso di Effetto Giorno per tornare a fare un punto su quello che succede a Londra. Noi nel frattempo rimaniamo all'estero e andiamo in Corea, che come nelle attese ha effettuato un nuovo test missilistico. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU si riunisce già stasera per condannare l'ennesima provocazione nordcoreana, il lancio di un altro missile sopra il Giappone che ha spaventato milioni di persone in Hokkaido e nel Giappone settentrionale, svegliate alle 7 del mattino dalle sirene di allarme. A non spaventarsi sono stati i mercati finanziari, tanto che sia la borsa di Tokyo sia quella di Seoul hanno chiuso in lieve rialzo. Era infatti largamente atteso che il leader Kim Jong-un, dopo le inasprite sanzioni votate lunedì dal Consiglio di sicurezza in seguito al test nucleare del 3 settembre, non si limitasse a far lanciare dai suoi mass media iperboliche minacce di incenerire l'America e affondare in un olocausto nucleare le quattro isole giapponesi. Kim ha dimostrato oggi di poter colpire l'isola americana di Guam, facendo lanciare l'ultimo missile balistico intermedio a traiettoria standard per 3.700 km, 1.000 in più rispetto a quello del 29 agosto. Per molti esperti, comunque, c'è ancora tempo prima che Pyongyang oltrepassi la linea rossa, con missili intercontinentali pienamente operativi in grado di colpire con testate nucleari gli Stati Uniti. E almeno fino alla visita dei primi di novembre di Donald Trump a Tokyo, Seoul e Pechino, i mercati registrano che i rischi di guerra appaiono molto limitati. Stefano Carrer, Radio 24, Sole 24 Ore, Tokyo. E veniamo alle vicende italiane per parlare di quelli che impropriamente sono stati definiti vitalizi. In realtà si tratta delle pensioni dei parlamentari calcolate con il metodo contributivo, quindi sostanzialmente come le nostre, che arriveranno dal 65esimo anno di età una volta che si è completata una legislatura. Il vantaggio per i parlamentari in questo caso è il fatto di poterlo avere dopo una sola legislatura e quindi con sostanzialmente 4 anni e mezzo di contributi. Il tema è al centro della scena proprio appunto perché questo è il momento nel quale scattano questi 4 anni e quanti sono. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, è così, 4 anni e 6 mesi, se ne è parlato molto, alla fine è arrivato allora anche il 15 settembre, da oggi infatti 608 parlamentari, tutti di prima legislatura, avranno diritto ad una pensione di circa 1000 euro e che potranno incassare se non saranno rieletti a 65 anni. Non si tratta quindi, e lo anticipavi da studio, di vitalizi, ma di una pensione aggiuntiva e basata sul metodo contributivo. Per il Movimento 5 Stelle è comunque un privilegio che traccia un solco profondo tra i parlamentari e i cittadini normali. Sentiamo allora le ragioni dei pentastellati dalle parole di Di Maio. Noi vogliamo che ci riconoscano solo i contributi versati, poi se lavoreremo abbastanza per raggiungere l'età pensionabile come normali cittadini, allora questi contributi rientreranno nel montante contributivo. Ma se questo non avverrà, perché magari Luigi Di Maio resta disoccupato a vita dopo i suoi mandati, beh, come tutti i cittadini italiani vogliamo essere trattati. Qui c'è un privilegio non indifferente. 4 anni e 6 mesi. Ti versano i contributi per 4 anni e 6 mesi e poi che tu abbia fatto qualcosa o non abbia fatto niente nella tua vita, a 65 anni ti riconoscono 1000 euro di pensione. C'è una bella differenza rispetto al normale cittadino. E la pensione toccherà con l'attuale normativa circa 2 parlamentari su 3, visto che con la legislatura iniziata nel 2013 entrarono tantissimi nuovi membri, inclusi gli 88 deputati e 35 senatori proprio del Movimento 5 Stelle. Chiederemo ai presidenti di Camera e Senato di poter rinunciare alla pensione privilegiata dei parlamentari, hanno annunciato Di Maio e Di Battista. E da Roma è tutto, linea allo studio. E grazie dunque a Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. Noi restiamo sulla politica perché continua a tener banco il blocco dei conti della Lega. Matteo Salvini passa al contrattacco dopo il sequestro dei fondi della Lega. Cercano di toglierci di mezzo alla turca, ma non ci riusciranno. In democrazia decidono gli elettori, non un singolo giudice, ribadisce oggi il segretario del Carroccio, che dai microfoni di Radio Padania chiama a raccolta il popolo leghista in vista del raduno di domenica a Pontida. A disporre il sequestro preventivo di diversi conti bancari del partito è stato il Tribunale di Genova, dopo la condanna di Bossi e Belsito nel processo di primo grado sui fondi elettorali del Carroccio. Salvini dà anche del bugiardo a Matteo Renzi, che ieri aveva accusato la Lega di aver rubato soldi pubblici. Dal PD oggi Rosato replica, sfidando il leader leghista a restituire i soldi e a costituirsi parte civile nel processo. Ad intervenire è anche il grillino Di Battista. La Lega si prende i soldi pubblici e poi si lamenta perché dice abbiamo tutti quanti contro, questo è il mondo alla rovescia, ironizza l'esponente pentastellato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E questo è il quadro al momento dalla politica, mentre noi passiamo alla cronaca e alla diffusione della chikungunya a Roma. Salgono a 27 i casi accertati di chikungunya nel Lazio, la maggior parte dei quali concentrati ad Anzio, comune del litorale romano, ma è molto probabile che la cifra continui a salire. A sostenerlo è il Centro Europeo di Controllo delle Malattie in un documento di valutazione del rischio legato ai focolai italiani. La trasmissione locale si sta rivelando molto efficace, scrivono gli esperti europei. E dato che le condizioni ambientali rimarranno le stesse in quei territori, nelle prossime settimane la probabilità di ulteriore trasmissione resta alta. Oggi intanto a Roma incontro tra le associazioni di volontari per la donazione di sangue, in cui è stato deciso di avviare una raccolta straordinaria nelle ASL non sottoposte al blocco delle donazioni per compensare le eventuali carenze, in particolare quelle che si stanno registrando nei territori coperti dalla ASL Roma 2, vale a dire le zone sud-est della capitale che contano 1 milione di abitanti e dove sono state fermate le donazioni come misura di prevenzione. Intanto da 10 regioni italiane sono arrivate per ora 850 sacche in una gara di solidarietà definita dal presidente della regione Lazio Zingaretti un bel esempio di unità e generosità del paese. Il governatore comunque spegne ogni allarmismo, non ci sarà carenza di sangue. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E di questo torneremo a parlare più avanti perché, come sapete, l'attenzione si è concentrata, le polemiche si sono concentrate anche sulla disinfestazione a Roma, che non è mai stata fatta per le zanzare tigre e che sta scattando proprio in queste ore. Su questo tema andremo a sentire l'assessore alla sostenibilità ambientale proprio del comune di Roma, Pina Montanari. Andiamo in Europa, dove si discute oggi di web tax. L'annosa questione di come tassare le grandi imprese digitali è in agenda di 1 o 2 giorni di riunioni dei ministri finanziari dell'Unione qui a Tallinn. In questi anni, grazie a scappatoie fiscali e alla natura immateriale della loro attività, queste multinazionali sono riuscite a strappare tassi di imposizione molto bassi. Italia, Francia, Germania e Spagna hanno proposto di tassarle non più sui profitti ma sul fatturato. Altri, come il governo estone, hanno proposto di organizzare la tassazione sul numero di contratti o contatti in ogni dato paese. Il dibattito è aperto e l'esito incerto, non solo perché le visioni sono diverse da paese a paese, ma anche perché la questione dovrebbe essere risolta a livello internazionale e non solo europeo. Il dibattito qui a Tallinn sarà il primo di una serie, tanto la questione è complessa. Tutti però sono d'accordo per dire che nello stesso modo in cui Google e Facebook hanno cambiato l'economia, è necessario cambiare il modo in cui tassare queste aziende. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tallinn. Noi torniamo a parlare di immigrazione perché scuole, ospedali e centri di accoglienza, la partita sulla scacchiera libica è molto più grande dell'intesa sui flussi migratori. Il ministro Minniti ha presentato all'Unione Europea, e ve lo abbiamo raccontato ieri, il prospetto delle richieste dai 12 sindaci libici. Un'opportunità per le aziende italiane, è scettico il presidente della Camera di Commercio Italo-Libica, Gianfranco Damiano, intervistato da Valentina Furlanetto. Noi che finanziamo la Guardia Costiera Libica sono anni che forniamo anche dai tempi di Gheddafi motovedette, istruzioni, formazione eccetera, non è niente di nuovo, diciamo. E nonostante questo, lei dice, non era cambiato nulla, quindi è inutile anche adesso, però gli sbarchi effettivamente sono calati moltissimo. Sì, sono calati perché le milizie non sono delle brigate che non scherzano. Ma sono calate perché le milizie fanno barriera, sono pagate e fanno barriera. Non possiamo continuare a finanziare chi fino a ieri ha portato traffico di esseri umani, chi fino a ieri ha venduto armi, droga, eccetera. E quando si parla di centri di accoglienza in Libia, io eviterei questo eufemismo, direi campi di concentramento in Libia. Questo si sta realizzando. Questa e altre voci nel reportage di Valentina Furlanetto sulle nuove rotte dei migranti che andrà in onda domani alle 7:15, è sabato, quindi nel caso non riusciste a sentirlo, c'è sempre il podcast. Sempre meno gente e stand sempre più vuoti alle feste dell'Unità, a questo è dedicata l'analisi del nostro Daniele Biacchessi che torna puntuale come ogni venerdì. I primi indizi arrivarono a metà luglio durante la festa dell'Unità di Milano all'ex scalo Farini. Luogo non pubblicizzato, abitualmente poco frequentato, dibattiti semivuoti, scarso interesse della città verso la festa. Del resto PC, PDS, DS e infine PD ci avevano abituato da sempre ad un grande festival popolare a Milano organizzato a settembre al Monte Stella o Lampugnano con centinaia di migliaia di presenze in cassi record. Già a Milano gli operatori commerciali che avevano affittato stand lamentavano mancati guadagni. Lo scorso maggio la festa di Bergamo durò 2 giorni invece degli annunciati 15. Alla kermesse annuale di Bologna visitatori e proventi si sono dimezzati. Non vanno meglio le cose nel resto delle feste d'Italia. La scarsa partecipazione la si vede anche in alcune riprese televisive e immagini che ritraggono il ministro Poletti che parla davanti alle sede vuote del Festival di Modena. A Viterbo tutti i dibattiti politici hanno registrato presenze intorno ai 20 spettatori. Il Festival Nazionale di Imola pare più una piccola saga di pesce che l'appuntamento clou dell'apertura di una nuova stagione politica. E poi mancano i volontari. Le ripetute scissioni, Sinistra Italiana, possibile MDP, hanno ridotto al lumicino i militanti disposti ad impiegare le proprie ferie per allestire una festa. Gli organizzatori danno la colpa al maltempo, che certamente può aver condizionato questi ultimi giorni di settembre, ma non l'intera estate, tra le più calde di sempre. In realtà il divario tra dirigenza e base del partito si è allungato a dismisura, fino a farlo apparire ai più come incolmabile. E le feste che rappresentavano il punto d'incontro tra mille differenze rischiano oggi di divenire un luogo di autocelebrazione, invece che un luogo di ascolto. Così dunque l'analisi di Daniele Biacchessi. Andiamo a chiudere questa prima parte parlandovi della sonda Cassini che oggi conclude il suo percorso. Dopo 13 anni in orbita attorno a Saturno, la sonda Cassini si immerge nel pianeta che ha studiato. Il gran finale, lo hanno chiamato così alla NASA, seguito in diretta mondiale, avverrà con una picchiata velocissima a 113.000 km orari da 1915 km, ovvero dallo strato superiore delle nubi del pianeta. La sonda era partita nel 1997 per volontà dell'Italia con la sua Agenzia Spaziale Italiana, della NASA e dell'Agenzia Spaziale Europea. Cassini invierà fino all'ultimo informazioni, utilizzando 8 delle sue 12 strumentazioni. Una volta entrato nell'atmosfera, il satellite più grande mai costruito utilizzerà i propulsori per contrastare il gas e mantenendo le antenne rivolte verso la Terra. Una sonda dei record, 5.600 kg al decollo, costato più di 3 miliardi di dollari, 6 lune di Saturno nuove scoperte, oltre 453.000 fotografie scattate, 22 i tuffi tra gli anelli di Saturno, il pianeta di cui ci ha rivelato tanti segreti. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi ci ritroviamo, iniziamo il nostro giro per l'Italia, iniziamo da Roma per cercare di capire dalla responsabile politica, in questo caso è l'assessore alla sostenibilità ambientale del comune, Giuseppina Montanari, e come mai la disinfestazione per le zanzare sia partita così in ritardo. A tra poco. A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin, nel banco freezer! Vi presenta... Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per gli sms e per i messaggi su WhatsApp, e sempre la nostra pagina Facebook, dalla quale andiamo in diretta video, così come andiamo in diretta video sulla pagina di Radio 24, e se volete potete commentare e scrivere anche là. Iniziamo dunque il nostro giro per l'Italia. Dopo aver parlato dell'esplosione nella metro a Londra, ci torneremo tra un po' per gli aggiornamenti da Giorgia Scaturro del nuovo test missilistico sulla Corea e del diritto alla pensione che scatta oggi per i parlamentari, e ci siamo occupati anche della sonda Cassini. Iniziamo il nostro giro per l'Italia, si diceva, da Roma. Oh, chiariamo che non è un problema solamente della capitale. Chi vive a Milano sa bene che a metà luglio scattò una forte protesta dei cittadini, prevalentemente tramite i social, ma non solo, perché la disinfestazione era stata fatta piuttosto male. Questo a causa del fatto che la società, che la municipalizzata che se ne doveva occupare, aveva risolto il contratto con la società di disinfestazione perché questa società era risultata inadempiente. Quindi le cose sono partite con estremo ritardo. Fatto sta che Roma si trova in questo momento con un problema sanitario, la chikungunya, che è questo morbo che viene trasmesso anche dalla zanzara tigre, che, come già abbiamo raccontato, giusto per tranquillizzare le persone, non è mortale se non in casi rarissimi, però può dare ovviamente forti dolori, e ha creato un problema soprattutto dal punto di vista del sangue, perché è stata bloccata la donazione di sangue per 1.200.000 romani. Sono affluite le sacche di sangue, come abbiamo raccontato, anche da altre regioni, ne sono arrivate 850, e quindi la situazione a questo punto pare più tranquilla. E però c'è questo tema della disinfestazione: come mai è scattata, come mai non è scattata. Soprattutto siamo in linea con Pinuccia Montanari, che è l'assessore alla sostenibilità ambientale del Comune di Roma. Io non so come se vuole essere chiamata ufficialmente assessore, però tutti scrivono Pinuccia, sarebbe Giuseppina, mi dica lei. Comunque, Pinuccia Montanari va benissimo. Va benissimo, Pinuccia, va benissimo. Montanari. Okay. Vi ringrazio. Allora, assessore, ci spiega come mai è partita così in ritardo la disinfestazione? No, assolutamente. Infatti questa è una notizia assolutamente falsa che sta girando sui media, perché noi la disinfestazione l'abbiamo fatta partire da aprile, e abbiamo investito con un piano di deratizzazione e disinfestazione proprio sulla zanzara tigre, con circa 1.000 interventi interventi che sono stati effettuati. Tra l'altro abbiamo fatto anche un'ordinanza, e la nostra ordinanza è stata anche la prima nel suo genere, basata proprio sulla prevenzione, su prodotti biologici e sulla drastica riduzione di sostanze a elevata tossicità, e quindi avevamo proprio a cuore il tema della tutela dei cittadini e anche la salvaguardia dell'ambiente e naturalmente la conservazione della biodiversità rispetto agli interessi economici delle ditte di disinfestazione. La nostra ordinanza, tra l'altro, che è un'ordinanza appunto di aprile, è la dico a Montanari ed ha vinto al TAR, quindi noi gli interventi li abbiamo fatti. Li avete fatti, Montanari, mi fa chiedere una cosa, chiedere una cosa che poi è quello che immagino che i romani si stiano chiedendo, ma questa lotta biologica le ammazza ste zanzare tigre oppure no? Perché i prodotti che noi abbiamo utilizzato assolutamente è un prodotto che fa effetto una lotta larvicida che assolutamente è funzionante, ma vorrei rassicurare che oltre a questi 1000 interventi fatti da partire ad aprile, con questa anche vittoria della nostra ordinanza che quindi è stata anche al TAR riconosciuta appunto come correttissima, noi poi abbiamo fatto anche adesso invece nel caso dell'emergenza ulteriori interventi sia di tipo appunto larvicida che adulticida, e questi interventi vengono fatti nei condomini dove vengono segnalate le situazioni, dove sono state segnalate in questi giorni, quindi nei tempi rispettosi appunto anche di quello che prevede la normativa, nei condomini e anche fino a 200 metri dal luogo appunto che è stato segnalato. Ma oltre a questo, proprio per mettere in sicurezza i cittadini, devo dire che abbiamo fatto anche nella nuova ordinanza, quella appunto che è stata fatta in questi giorni, abbiamo previsto interventi sia sui luoghi pubblici dove appunto i casi vengono segnalati, ma anche abbiamo fatto in modo che questa ordinanza anche per i prossimi giorni funzioni come già sta funzionando appunto anche adesso, con interventi delle ditte specializzate anche sui luoghi privati che vengono segnalati senza bisogno di ulteriori atti. Questo perché, senza allarmismo, noi ovviamente vogliamo assolutamente tutelare soprattutto i cittadini, e quindi con un forte impegno e con come dire, interventi che proseguono quelli di aprile. Abbiamo altri 700.000 euro proprio destinati a questo, oltre al piano 2017 assessore, che è già in corso. Assessore, ci sono molti ascoltatori qua che stanno esprimendo perplessità, per così dire, via SMS, via WhatsApp e via dicendo, stanno esprimendo perplessità sulla lotta biologica alle zanzare tigre con prodotti biologici o eventualmente poco forti. Voi avete evidenze, prove e siete in grado siete in grado di fornirle queste prove, che la disinfestazione, per così dire, bio o a più basso impatto ambientale abbia funzionato? E seconda domanda, il metodo che state utilizzando adesso per questo nuovo giro di disinfestazione è sempre quello bio o state andando giù cattivi con l'insetticida? No, dunque, guardi, noi stiamo sempre utilizzando prodotti che prevedono anche, oltre appunto l'utilizzo di prodotti biologici, o comunque semplicemente una drastica riduzione di sostanze ad elevata tossicità. Però quello che le volevo dire è questo, che abbiamo anche istituito l'Osservatorio Ambiente Salute, che ha monitorato l'efficacia di tutti gli interventi appunto dei mesi scorsi a partire da aprile, e che sta monitorando anche attualmente la situazione. Questo osservatorio è fatto dai migliori esperti diciamo della materia, con visioni anche diverse, e quindi su questo noi ci stiamo muovendo proprio perché vogliamo rendere assolutamente efficiente io invece ho segnalazioni Quando ce li può fornire questi dati? Quando ce li potrete fornire questi dati assolutamente adesso l'Osservatorio Ambiente Salute si ritrova, si è trovato anche nel periodo di agosto proprio per monitorare questa situazione, ci sono tra l'altro anche esponenti come Fabrizio Pratesi, ma anche altri esperti, professori universitari, eccetera, e quindi si ritroverà adesso nel mese di settembre, farà la valutazione anche dell'efficacia e dei prodotti che abbiamo utilizzato, e addirittura direi che invece ho preoccupazioni. La renderete pubblica con dati aperti e tutto quanto. quanto. Bene, assolutamente, bene, con bene. Anche come abbiamo fatto con le nostre infografiche sui dati appunto degli interventi di appunto disinfestazione che sono stati effettuati da aprile ad oggi e compresi anche gli ultimi, quindi assolutamente massima trasparenza su questo. La ringrazio, grazie a Pinuccia Montanari, assessore all'ambiente del Comune di Roma, sì, forse la delega un'altra, sostenibilità ambientale, eccolo qua, del Comune di Roma, per essere stata con noi e per averci chiarito che almeno a quello che dice lo stesso assessore, la disinfestazione è stata fatta. Qualcuno ci scrive: io abito a Corso Francia, da me non l'hanno mai fatta, però insomma può darsi anche che non siano state raggiunte tutte le zone. Ha parlato di 1000 interventi. Giuseppe Banderali, della Società Italiana di Pediatria. Buongiorno professore, buongiorno. Benvenuto. Grazie. Mentre mi scusi, mentre dobbiamo dare qualche aggiornamento su Londra e su quello che è avvenuto questa mattina, come gli ascoltatori sanno, la notizia di questa mattina è che è esploso un ordigno artigianale sulla metropolitana, ci sono una ventina di feriti, si tratta di terrorismo e l'attentato al momento non sembra aver fatto danni gravi né sulle persone né sulle cose. L'ultima notizia è che è stata rafforzata la presenza di agenti di polizia sui trasporti pubblici di Londra dopo l'attacco alla metropolitana. Più avanti torneremo a collegarci con Giorgia Scaturro, la quale appunto ci aggiornerà ulteriormente. L'abbiamo chiamata, professor Banderali, per tutt'altro argomento naturalmente, perché oggi abbiamo visto un titolo interessante sulla Stampa e dice che i pediatri si schierano contro la dieta vegana. Nel dossier che verrà presentato domani al congresso della Società Italiana di Pediatria, della quale lei fa parte, nessuno specialista dovrebbe raccomandarla a una coppia per il proprio figlio. Come siete arrivati a questa conclusione? La conclusione, diciamo, logicamente quando poi si fanno i titoli un po', chiamiamoli un po' di tipo giornalistico, si fa un discorso in generale, perché poi ogni caso, ogni bambino, ogni famiglia è un individuo. Per fare un esempio come premessa, la dieta vegana è una dieta che deve essere data in bambini che hanno ad esempio la fenilchetonuria, che sono bambini che hanno appunto delle malattie metaboliche per cui non riescono a digerire tutti gli alimenti, e quindi in questo titolo un po' giornalistico bisogna aggiungere: la dieta vegana non deve essere data a meno di situazioni in cui può essere una terapia. Ecco, questa è un po' una premessa per far capire come negli individui e come negli interventi di tipo così legati alla salute, dire tutto nulla è sempre un pochino da... Quindi è un po' il titolo per così dire è un po' secco, non lo escludete del tutto. Probabilmente il discorso che noi vogliamo fare è questo, sulla base anche di quello che vediamo, sulla base di dati che ci vengono riferiti, quello che noi pediatri vogliamo sottolineare è che nel caso in cui il bambino tanto più è piccolo e tanto più la dieta è di restrizione, di eliminazione, tanto più il monitoraggio attento nutrizionale deve essere fatto bene. Ripeto, faccio l'esempio dei bambini che noi seguiamo all'ospedale San Paolo a Milano che hanno la fenilchetonuria, perché questi sono bambini che per una condizione di patologia non possono mangiare alimenti di derivazione animale, ma seguiti bene tutto sono bambini che diventeranno adulti sanissimi. Quindi diciamo così. Però il monitoraggio attento nutrizionale è fondamentale. Noi abbiamo raccontato spesso, abbiamo raccontato nei mesi scorsi di casi anche di, se non ricordo male, c'è stato anche un bambino che ha perso la vita anche a causa della dieta vegana che gli facevano seguire i genitori. Grazie al professor Giuseppe Banderali della Società Italiana di Pediatria. Andiamo a collegarci con Londra, Giorgia Scaturro. Ciao Giorgia, quali sono le ultime? Purtroppo sono ultime nel campo dei feriti, che salgono da 18 a 22, anche se bisogna dire che sono persone che hanno riportato ustioni non gravi, non sono critici, non sono a rischio di vita. Si sta per tenere la riunione di emergenza del Comitato di Crisi sulla sicurezza indetta dal Primo Ministro Theresa May. Intanto si parla dell'ipotesi che la bomba, un ordigno fai da te, esploso sulla carrozza della Virgin Line a Parsons Green, possa essere stata attivata a distanza da qualcuno che ha collocato l'esplosivo e poi è uscito dal treno e si è allontanato. Dunque in questo momento ci sono elicotteri e polizia armata che stanno presidiando fittamente tutta l'area sud-ovest di Londra. in tutta la capitale, però è caccia all'uomo, il terrorista che ha fabbricato questo ordigno, o anche i suoi possibili complici. Oggi si aspetta in tutta la capitale una presenza massiccia di poliziotti armati, sia sulla metropolitana che a presidio dei luoghi più critici della capitale. Grazie a Giorgia Scaturro anche per questo aggiornamento che arriva da Londra. Naturalmente continueremo a darvi notizie quando arriveranno. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi riprendiamo il nostro giro per l'Italia. E riprendiamo dal Savonese, dove è avvenuta una vicenda che francamente ci ha lasciati basiti. È una vicenda di uno stupro avvenuto ai danni di una ragazzina di 13 anni, uno stupro terribile durato a quanto pare alcune ore, la bambina è stata seviziata, solamente che è una storia di 70-80 anni fa. È una storia che risale all'immediato dopoguerra, al momento nel quale il fascismo è caduto. È la storia di una ragazzina che ha subito tutto questo da un gruppo di partigiani. Ora si vuole ricordare la storia di questa ragazzina in questo paesino del Savonese con una targa, ma Lampi dice di no, perché dice questa ragazzina, una ragazzina di 13 anni, violentata e seviziata, era fascista. Parleremo proprio col presidente dell'Ampi locale per farci spiegare che cosa diavolo abbia in testa. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, i nostri titoli. Esplosione nella metro di Londra, come avete sentito sono 22 i feriti, Scotland Yard parla di terrorismo. Nuovo test missilistico della Corea sul Giappone, milioni si risvegliano al suono delle sirene. Oggi scatta il diritto alla pensione per i parlamentari, 5 Stelle chiedono ai presidenti delle Camere di farli rinunciare. Chikungunya, scatta la disinfestazione a Roma, i casi salgono a 27 la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo. Samuele Rago, presidente della sezione provinciale dell'Ampi, l'Associazione Nazionale Partigiani di Savona. Buongiorno Rago, benvenuto. Buongiorno a lei. La vicenda la ripetiamo ancora per gli ascoltatori che si fossero messi in ascolto solamente ora. È quella di Giuseppina Gersi, che era una ragazza di 13 anni che pochi giorni dopo la liberazione, proprio nel Savonese, fu violentata e seviziata per ore, se non per giorni, da un gruppo di partigiani, che insomma non definirei nemmeno partigiani in questo caso, ma molto semplicemente dei delinquenti. Addirittura raccontano le cronache che fu versata della vernice rossa in testa e il suo corpo fu abbandonato nel cimitero. Cosa succede? Perché parliamo di questa vicenda? Perché viene proposto nel comune di Noli, proprio nel Savonese, di mettere una targa che ricordi questa ragazza. E voi, Rago, dell'Ampi, vi siete opposti dicendo era fascista. Mi spiega un po' questa cosa? Dunque, il fatto è che questa decisione del comune di Noli di mettere questa targa è un atto strumentale. Tant'è vero che Forza Nuova ha scritto sul suo profilo Facebook di Savona, Forza Nuova di Savona, Camerati è viva, abbiamo vinto, metteranno una targa a Giuseppina Gersi, alla camerata Giuseppina Gersi, andiamo tutti il 30 in piazza alle celebrazioni di questo. Questa è la dimostrazione che si tratta di un atto di strumentale, nient'altro, sì, che questo. Mi scusi, però... Diversamente noi ragioneremo in altro modo, cioè noi non nascondiamo il fatto che si è trattato di un atto criminale quello che è stato compiuto nei confronti della Giuseppina Gersi. Ma questo non può nascondere quello che lei è stata in precedenza. E in precedenza cosa, che aveva 13 anni, scusi? Aveva 13 anni, ma sa, non ho mai sentito parlare dei bambini soldato, dei bambini killer. Allora, lei a 13 anni andava in giro per il quartiere di Fornaci, ci sono le testimonianze tuttora, vestita da brigata nera con la pistola al fianco, a minacciare le persone che erano antipatiche magari a lei o alla famiglia, e qualcuno dice, ma su questo non ci sono documenti, e qualcuno è finito anche nei campi di concentramento. Però non ci sono documenti su questo. Però su questo, non ci sono documenti. Sono delle testimonianze di persone che all'epoca erano lì. Non so, guardi, Rago, le confesso la mia perplessità, insomma, io sono quanto è più lontano ci possa essere da un fascista, però stiamo parlando comunque di una ragazzina di 13 anni, parliamo anche se vogliamo di menti labili. Io ho un figlio di 13 anni, quindi, come dire, la cosa la sento particolarmente, però parliamo di menti anche che si possono far condizionare, e quella violenza, per come è raccontata e per come è descritta nelle cronache, è una cosa terribile. Anche se mi permette, Rago, anche come elemento a ricordo del fatto che, certo, il fascismo è stato quello che è stato, però dopo la liberazione si sono consumate anche delle violenze inaccettabili. Ormai questo è anche storicamente riconosciuto, no? Potrebbe esserci come elemento. E abbia pazienza, chiudo dicendo, anche chi se ne frega di Forza Nuova, tutto sommato. Sì, sì, ma indubbiamente ci sono state delle vicende. Ma sa, le guerre non è che finiscono il giorno in cui si è stabilito che finiscono, no? Le guerre creano odi, rancori, che prima o poi in qualche modo si esprimono. Questo non è giusto, è un dato però reale. Allora discutiamo sul come evitare che ci sia di nuovo distribuzione di odio a piene mani, come stanno facendo i fascisti e i nazionalisti in questo momento, e che possono portare di nuovo delle guerre e quindi di nuovo a situazioni di quello tipo. Si vuole ricordare Giuseppina Guerci, lo si faccia facendo un'azione contro a chi oggi semina odio nei confronti dei diversi, degli immigrati piuttosto che di altre categorie. No, ma che c'entra però, mi scusi? Cioè, c'entra il fatto che questa vicenda qui, drammatica, terribile, come tutta la vicenda della guerra, ci deve insegnare che bisogna impedire che idee di odio e di violenza prendano di nuovo campo. Ed è dimostrato che sta avvenendo, no? Rago, mi spiega una cosa. Io, dalle sue parole, sembra quasi che lei stia giustificando lo stupro. Dice, insomma, questa ragazzina girava a cercare la gente, la mandava nei campi di concentramento, e quindi tutto sommato Era vittima anche lei della violenza. Già prima era vittima della violenza, così come i bambini soldato non sono responsabili di persona, no? Esattamente quello che intendevo. E questo, ma su questo siamo d'accordo, ma noi non abbiamo nessun problema a ricordare la memoria di tutti, capisce? Cioè, soprattutto poi di persone vittime, perlomeno innocenti, considerata l'età. Ci siamo? Non abbiamo problemi, però che questo sia fatto per esaltare l'idea fascista, abbia pazienza, cioè Non me lo invento io, eh. Lei può andare sul profilo Facebook di Forza Nuova di Savona a leggere cosa scrivono. Cioè, lo scrivono loro, no? Sì, questo poi ognuno fa uso strumentale di quello che vuole. Ripeto, qua parliamo dello stupro di una ragazzina di 13 anni. Comunque, conservo le mie perplessità, voi conservate la vostra posizione. Grazie a Samuele Rago dell'Ampi Savona. Devo chiudere, traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.